Barbara, vieni, fratelli mia, oddio, dei barbari, a te fai dalla fila, a te si è bella tu vai di copre il figlio, e coprivi, hai il petto, affila, io te, oh,